Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. We'll be right back. Le prime unità di Tarspok sono arrivate alle porte dell'area nord, seguite da due auto dei media che si tengono alla distanza. Gli sciacalli della notizia hanno capito che non bisogna fidarsi assolutamente degli uomini topo, quindi evitano di stare molto vicini ai Tarspok in certe operazioni. Quello che è accaduto in casa di Almir è ben noto ai media Tarspok, anche se la notizia è stata messa subito a tacere da Navig. Gli 007 dei Tarspok, messi in allarme da Grande Generale, attraverso una lauta ricompensa che consiste in una villa in costiera ed una notevole aggiunta monetaria al conto corrente del direttore dei media di Stato, hanno fatto sì che non si parlasse più dell'accaduto. All'ingresso dell'area nord, proprio in vicinanza del termovalorizzatore esploso, ci sono le auto messe di traverso in mezzo alla strada che bruciano. Si sentono urla disumane e l'eco dei passi veloci di gente che corre arriva da un porticato di un palazzo poco distante dalle barricate di auto. Gli uomini topo, in tenuta antisommossa, si schierano davanti alle stesse barricate in un cordone simile ad un muro umano. Un'altra unità di Tarspok è arrivata dall'altro lato della zona e si schiera allo stesso modo dei loro colleghi. Sembra che da lì a poco debba passare una manifestazione per come si sono schierate le due unità. I media Tarspok, che sono in tutto tre, invece lasciano le loro auto ed entrano in un condominio sperando che ai piani alti qualcuno li possa ospitare per fare delle riprese video degli eventuali scontri dai balconi. I campanelli delle porte vengono suonati uno ad uno, man mano che gli sciacalli risalgono i piani, ma non una di quelle porte si apre. Arrivati al penultimo piano, i tre trovano la porta di un appartamento aperta. Uno dei media Tarspok, affacciatosi con la testa poco oltre l'ingresso di casa, chiede se c'è qualcuno. «Signori, scusate! Siamo della TV di Stato! Ma c'è qualcuno? Serve aiuto!» Siamo qui anche per aiutarvi. Si gira poi verso gli altri due con le estremità delle labbra curvate giù e le sopracciglia aggrottate. Bah, secondo me o non c'è nessuno o sono morti tutti qui. Riproviamo a chiamare ancora una volta per sicurezza prima di entrare. Non vorrei che si spaventassero se piombiamo dentro casa e non ci avessero sentito. Ha ragione Eric, risponde il terzo uomo, chiama più forte e dai qualche colpo alla porta. Seguirono vari colpi alla porta e varie richieste di permesso per entrare in casa, ma nessuno rispose. Così i tre varcarono la soglia dell'appartamento e si addentrarono alla ricerca di una camera con un balcone che affacciasse sullo stradone in cui si erano schierati Tarspok. Appena dentro casa, il primo dei media Tarspok che era entrato, Thomas, prese un foglio pulito A4 ed un pennarello nero dal suo zaino e, riferendosi a Frank, che era stato l'ultimo dei tre ad entrare, dice: «Lascia la porta aperta e metti un biglietto fuori per avvisare che siamo entrati». «Stavo pensando appunto a questo, anche se secondo me qui non torna proprio nessuno, saranno morti o scappati tutti». Noi però mettiamo il biglietto comunque, perché tra la gente non godiamo già di una buona reputazione. Attaccato il biglietto all'ingresso di casa, i tre portarono tutta l'attrezzatura dentro ed imboccarono il lungo corridoio buio su cui lati si distendevano tre camere e la toilette, e che era a malapena illuminato da una piccola luce proveniente dalla camera in fondo. Thomas continuò a chiedere permesso man mano che avanzava, molto premurosamente e lentamente insieme agli altri verso la porta della camera che metteva fine al corridoio. Nessuno rispose ai richiami dei media Tarspok. Allora lo sciacallo diede gli ultimi due colpetti alla porta della camera da cui proveniva la luce e, vedendo che nessuno rispondeva, aprì molto lentamente la porta. Entrato in camera ed assicuratosi che non vi fosse nessuno, fece cenno agli altri due suoi colleghi di entrare. La luce fioca veniva da una torcia LED oramai quasi scarica, posta su uno dei comodini ai lati del letto matrimoniale, e che puntava verso il muro bianco che creava un reverbero. Il letto era sfatto, le coperte erano metà per terra, come se chi si era svegliato se ne fosse sbarazzato velocemente. Evidentemente era accaduto proprio questo, dato che l'esplosione alla centrale del termovalorizzatore era avvenuta nella tarda serata. Dopo aver dato una rovistata velocissima alla camera, i tre accedettero alla terrazza. Il panorama era spettrale. Il buio era spezzato dall'intermittenza delle luci blu delle sirene dei blindati dei Tarspok e dalle auto in fiamme. La centrale del termovalorizzatore era ormai uno scheletro fumante, mentre la raffineria accanto era diventata una lampada gigante a petrolio. Il crepitio del fuoco e le urla di quelli che pensavano fossero dei manifestanti erano gli unici suoni presenti in quella zona. I tre montarono la telecamera e le macchine fotografiche. Eric, che era l'addetto alle riprese video, iniziò a puntare la telecamera in vari punti della zona per regolare la messa a fuoco e tutti gli altri parametri. Thomas e Frank avevano montato dei grossi zoom alle loro già potenti macchine fotografiche e avevano già iniziato a scattare qualche foto alla centrale esplosa e tutto il territorio che la circondava. Eric aveva appena terminato la messa a punta della telecamera. «Che dite se inizia a riprendere un po' tutta la zona prima di fissare la telecamera sui Tarspor?» «Ottima idea», aggiunse Frank. «Approfittiamo della fortuna che ci ha baciati facendoci trovare questa terrazza che ci dà modo di vedere, di avere la visibilità su quasi tutta la zona nord. Mi raccomando però», disse Thomas, «al primo campanello d'allarme tutti gli obiettivi puntati sugli eventuali scontri». «Ma dai», accennando un sorriso sarcastico Eric, «pensavo che fossimo venuti qui per fare un documentario sulla movida notturna dell'area nord». «Ma vaffanculo», rispose Thomas. I tre risero per qualche secondo, poi un boato sordo di un'auto appena data alle fiamme li mise in allarme. «Eccoli che arrivano, sono circa un centinaio di ribelli. Corrono verso i Tarspok, sono pazzi! Riprendi immediatamente il tutto, ma soprattutto cerca di riprendere in primo piano i volti dei ribelli». Eric girò la telecamera verso il gruppo di persone che correvano contro i Tarspok, che erano già in posizione di carica. Accostò l'occhio al mirino cercando di inquadrare qualche volto. Non appena la messa a fuoco glielo permise, si ritrovò un volto poco rassicurante in primo piano. L'operatore allora, pensando che il sangue su quel volto fosse per qualche ustione o delle ferite, puntò l'obiettivo sul resto della massa umana. «Oddio porco!» esclamò Eric. «Cosa succede?» Quasi allo stesso tempo gli altri due risposero all'esclamazione del loro collega, che era diventato dello stesso colore della luna piena. Eric allora fece un segno di guardare attraverso il mirino agli altri due. Thomas si affrettò a guardare e mentre lo faceva aveva i palmi delle mani poggiati sui lati del viso in un'espressione terrorizzata. Quando arrivò il turno di Frank per guardare, la massa umana era arrivata già a poche decine di metri da Tarspok, che battevano i loro manganelli sugli scudi di plexiglass. Frank, dopo alcuni secondi, si piegò sulla ringhiera del balcone e lasciò cadere dal settimo piano, attraverso la bocca, una secchiata di vomito. Per circa mezzo minuto gli zombie arrestarono la loro corsa verso gli uomini topo, che ancora non avevano capito con cosa si stavano andando a scontrare. Poi un urlo terrificante e di nuovo l'avanzata veloce verso i Tarspok. Eric si fece coraggio e riprese il controllo della telecamera. Quando il mirino aveva messo a fuoco il punto da inquadrare, erano già partiti gli scontri. Il sangue schizzava dappertutto. Non erano i soliti scontri tra Tarspok e manifestanti. Qualche testa, non solo degli zombie, iniziò a rotolare per terra. Era una vera e propria battaglia medievale con arti dei corpi che venivano amputati. Tra gli zombie alcuni combattevano, mentre altri erano più preoccupati di sbranare i corpi dei Tarspok ammazzati. Un Taskforce riuscì ad infilarsi in uno dei blindati e dopo aver bloccato le portiere iniziò a lampeggiare con i fari abbaglianti per dare il segnale all'unità di Taskforce che era da quell'altro lato del vialone della zona nord e che da lontano non avevano capito cosa stesse accadendo. Solo pochi istanti e i blindati dall'altro lato come delle ruspe avanzarono spazzando via auto e bidoni della spazzatura che formavano le barricate. A poche decine di metri dai loro colleghi che continuavano a combattere contro gli zombie, dai blindati ancora in corso si aprirono le portiere laterali da cui scesero una cinquantina di Taskforce. Un minuto dopo la battaglia si era estesa su un lago enorme di sangue e corpi amputati, straziati e divorati. Radiazione di retrodazione 26 maggio 2014, abbiamo iniziato con 013, purtroppo è caduta la connessione. Noi appena subito dopo la lettura di Nazio 013 avremmo voluto dire chi sta ascoltando verso le 17:20 sicuramente. Attenzione. In automatico cadrà la connessione, una cosa che sta accadendo già da 3 settimane circa, alle 17, tra le 17:15 e 22 diciamo. Cade la connessione, quindi è possibile pure che ricade. E quindi volevamo dare il consiglio, riaggiornate, riaccendete il flash player, perché noi appena ce ne accorgiamo riconnettiamo la radio al server. Ma ci hanno anticipato. Sapevano che volevamo dirlo e quindi ci hanno anticipato. Vabbè, non finiscono mai di sorprenderci. C'è anche il sole oggi. C'è anche il sole, lunedì col sole. Vabbè, strano, venerdì strano. L'abbiamo fatto con la pioggia, giusto, quindi giusto, abbiamo anticipato. C'è sempre una compensazione. Sì. Ecco. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione @radiocc.org per chi vuole mandare scritti, comunicati o materiale da diffondere attraverso il sito di radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, di ascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast o scaricare libri, opuscoli, CD, manifesti attraverso la pagina di download. La radio trasmette su serveranarchia.net, messa a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo sempre ogni volta che andiamo in diretta. Oggi è lunedì, quindi come tutti i lunedì abbiamo iniziato con Nazio 13, io non lo so fino a quando avete potuto ascoltare, comunque nel caso poi domani registro la parte mancante, ci sarà tutta la parte mancante. Era da non perdere oggi. E quindi giornata di controinformazione, ma soprattutto giornata di letture. Il lunedì stiamo leggendo l'ultimo libro che stiamo leggendo, e sarà l'ultimo libro per questa stagione, I Sabotatori di Edward Abbey. Siamo arrivati oltre la metà, quindi ci abbiamo almeno altre 6-7 sì, non vi abbandoneremo presto. Non vi abbandoneremo col caldo, col sudore, con il ventilatore puntato in testa, che leverà un po' di fumo da questa stanzetta. L'aria, pure l'aria viziata, specialmente soprattutto l'aria viziata. E quindi almeno fino a metà luglio speriamo riusciamo a completare I Sabotatori senza fare una lunga diretta come gli amanti dell'Orsa Maggiore. Poi chissà. E soprattutto chissà. Se dovesse cadere un'altra volta la connessione della linea, invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando a non demordere, ma a ricollegarsi da completo, perché non appena... o cliccare sul banner oppure riaggiornare la pagina da dove ascoltate Radiazione, la diretta. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Yet Mai, Restrict and Obey, e poi dopo si torna qui e Marcello vi farà prima un riassunto per le puntate precedenti, concisissimo, e poi dopo si partirà con la nuova lettura dei Sabotatori di Edward Abbey. Down, perversions I'll act, gag, E allora ritorniamo a lunedì, le letture, diffidiamo dalle imitazioni, dicevano una volta. Allora stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, ricordiamo per chi non avesse ascoltato le letture precedenti che siamo nella zona mineraria del centro degli Stati Uniti, stiamo seguendo una batteria di 4 persone abbastanza inconsueta che si sono messe insieme per dar vita ad una serie di sabotaggi, di azioni, di pratiche, se vogliamo, di azione diretta contro quello che loro in maniera, diciamo, anche espansa e traslata anche noi chiamiamo la civilizzazione industriale, una morte sottile delle piante, degli animali, degli uomini, che per questa società in cui ci troviamo purtroppo a vivere è votata al massacro delle risorse, al massacro degli individui, al massacro anche del rispetto delle comuni regole naturali. Siamo qui seguendo appunto questi quattro personaggi: George Idak, Seldon Smith, il Doc e la sua, diciamo, compagna, che poi vedremo come andrà a finire, questa donna un po' femme fatale che si chiama Bonnie Habzug, che hanno già fatto un paio di azioni, si sono attrezzati, adesso stanno per colpire un centro minerario, una di quelle miniere a cielo aperto che stuprano il territorio, che scavano nelle viscere della terra e poi costruiscono enormi ferrovie, enormi autostrade, enormi macchine per portare questo carbone ad alimentare le centrali, per consentire alla società dei consumi statunitense, ma non solo, diremo noi, di perpetuare nel loro gioco al massacro. Quindi adesso noi andiamo a lavorare sulla ferrovia, ho detto all'inglese, come dice Habey, working on the railroad. Idak si muoveva con passo incerto nel buio, nella luce azzurra fioca. Tutto bene, tutti in piedi, alzarsi, mollare l'uccello e prendere i pantaloni, muovere il culo e scattare. La luna vecchia calava ad ovest. Buon Dio, questo è davvero pazzo, pensò lei, è uno psicopatico. Che ora è? Mormorò qualcuno. Doc, sepolto nel suo sacco a pelo. Le 4, dicono le stelle, abbaiò Idak. Sveglia, sveglia, sveglia, abbiamo solo un'ora prima dell'alba. Lei si girò e aprì gli occhi, vide il capitano Smith Seldon piegato sulla cucina da campo Coleman e sentì l'incoraggiante sfrigolio della salsiccia di campagna, l'aroma rincuorante del caffè alla cowboy. Idak, già con del caffè fumante in mano, stava toccando il dottor Doc Service sulle costole e lo faceva con la punta di ferro dei suoi scarponi d'arrampicata. Forza Doc, metti in moto il culo e lascialo in pace, disse lei, lo sveglierò io. E Bonnie si tirò fuori dal suo sacco a pelo, si infilò i jeans e gli scarponi, si avvicinò al dottore avvolto nell'accogliente lusso del suo sacco a pelo in piumino d'oca che poteva essere chiuso con la cerniera lampo insieme a quello di Bonnie, ma questa volta non era stato così, in modo da formare un sacco a pelo matrimoniale. Doc, insomma, sembrava riluttante ad alzarsi e ad affrontare di nuovo la realtà. E Bonnie sapeva, certo che lo sapeva il perché. Aprì le pieghe di nylon del cappuccio del suo sacco a pelo. Lui la guardò alla luce delle stelle. Senza gli occhiali, quegli occhi iniettati di sangue apparivano opachi e minuscoli. Il naso aveva perduto la sua brillantezza, ma sorrise. Lei lo baciò delicatamente sulle labbra, gli sfregò il naso, gli mordicchiò il lobo dell'orecchio. Doc, sussurrò, io ti amo ancora, stupido, ti amerò sempre. Come potrebbe essere diversamente? Ogni giovane artista ha bisogno di un vecchio mecenate. Le loro parole si trasformavano in vapore nell'aria gelida. Tirò fuori le braccia dal sacco a pelo e la strinse a sé. Consapevole della presenza sullo sfondo di Idak e Smith che stavano a guardare, lei ricambiò il suo abbraccio, lo baciò ancora. Alzati Doc, gli sussurrò nell'orecchio, non possono far saltare nessun ponte senza di te. Lui aprì la lampo del suo sacco a pelo e sgattaiolò fuori lentamente, un po' goffo, rigido, cullando un'enorme erezione tra le mani. È una vergogna sprecare tanta grazia, disse. Adesso era in piedi che si dondolava sugli arti posteriori, un pezzo di Marcantonio con la biancheria termica. Dopo, disse lei, potrebbe non esserci più un'altra volta. Oh dai, andiamo, infilati questi cazzo di pantaloni. dai, andiamo ancora una volta nelle braghe, amici. E le trovò le braghe, se le mise e fece qualche passo per urinare, a piedi nudi, sulla sabbia fredda. Bonnie sorseggiava il suo caffè vicino al tavolo da picnic, tremando nonostante la felpa. Heidach e Smith erano impegnati a ricaricare i veicoli, a risistemare i bagagli e il carico. Il piano del momento, così sembrava, era di raggiungere il sito dell'obiettivo prendendo sia la station wagon di Doc sia la jeep di Heidach. Il furgone camper di Smith sarebbe rimasto lì, carico e chiuso. Il capitano Smith, il vecchio Seldon Sin, non sembrava del suo solito buon umore, anzi, aveva un'aria pensosa, un'espressione che lo rendeva irriconoscibile, ma non per Bonnie, lei conosceva il tipo. Come il dottore, Smith tendeva a soffrire per i suoi scrupoli, una qualità molto poco utile in questo settore produttivo, e Bonnie desiderava avvicinarsi a lui come aveva fatto con Doc e sussurrargli parole di conforto all'orecchio. E invece, per quanto riguardava quel George Heidach, la vista di quella scimmia villosa le rivoltava lo stomaco. 30 minuti dopo, mentre guidava nel buio con Doc Smith al suo fianco, fu contenta al pensiero che Heidach, nella sua jeep stipata dietro di lei, stava mangiando la sua polvere. E di tanto in tanto sollevava lo sguardo dal volante per guardare una stella luminosa e solitaria, ma incastonata in quel velluto purpureo di sud-est. Le parole uscirono dal nulla. «Non è uno strano coraggio che mi dai, stella solitaria, o tu, incastonata nell'orsa maggiore?» «Gira a destra, là, dove dice caibito», disse Smith, e lei girò. Presero la nuova strada asfaltata alla salutare e sicura velocità di 80 km orari, lasciando indietro Heidach e la sua jeep arrancante. Solo il tremolio giallo, distante delle sue luci anabbaglianti sempre più piccoli nello specchietto retrovisore, le ricordavano la sua presenza. Presto si sarebbero smarrite anche quelle. Si trovavano da sole alle 5 del mattino su una lunga autostrada deserta, galea, che filava ad ovest attraverso l'oscurità. «Non siamo costretti a fare questo», pensava lei. «Potremmo mollare quel folle laddito, tornare ad uno stile di vita decente, rispettoso della legge e con qualche tipo di futuro davanti». Il vento soffiava leggero e veloce. La grande macchina affondava quasi silente nel bordo della notte, collegata e guidata dal quadruplice fascio dei suoi potenti proiettori. Alle loro spalle, oltre il margine della Black Mesa, comparvero le prime striature viriscenti dell'alba, annunciata dal passaggio di una meteora moribonda di fiamme e vapore attraverso il cielo fatale. Correvano in avanti, in linea diretta di collisione con i problemi. Le luci del cruscotto che mandavano riflessi sotto il tettuccio del furgone illuminavano 3 solenni facce addormentate. La faccia torva di Doc, pensò lei, barbuta con gli occhi rossi e la fronte rubizza. La faccia domesticamente onesta di Seldon Sin Smith, incorreggibilmente bucolica. E, naturalmente, la mia, quella di Bonnie. Quel profilo très élégant, quella gradevolezza classica che fa uscire gli uomini di zucca. Ma certo, sicuro. «Ancora dritto, tesoro, circa 1 chilometro, diritto», mormorò Smith. «Occhio a quei cavalli, cavalli? Quali cavalli?» «Freni, stridore di pneumatici, 2 tonnellate di acciaio, carne e dinamite scartarono lungo l'asfalto, zigzagando come un'ombra in mezzo ad un branco di pony. Occhi spalancati, grandi come palle da biliardo, luccicavano nel buio. Cavalli pezzati, mimetizzati, cavalli indiani, con sanguinei denutriti che pascolavano tra le erbacce, lattine e cespugli del genere Chrysotamnus lungo la strada. Per fortuna li mancarono tutti. Doc sospirò. Smith ghignò. «Spero di non averne spaventato nessuno», disse lei. «Diavolo no», disse Smith, «mi è solo risalito il buco del culo fino allo stomaco, niente di più». «Quegli animali riesci a vederli solo quando ci sei addosso», spiegò lei. «Hai ragione. Forse è per questo che per 2 chilometri hanno messo dei cartelli che avvertono di fare attenzione agli animali». «Ah, si stava andando così bene», disse lei. «Dannati selvaggi pelle rossa», disse Doc. troppo taccagni per mettere delle recensioni, che li paghiamo a fare l'assistenza, questi aborigeni non ne fanno una giusta neanche per sbaglio. Così va bene, disse Smith. Gira là su quella strada sterrata dove c'è quel cartello scionto 56 chilometri. Seguirono una strada sterrata il cui fondo era simile a quello di un asse per lavare. Piccole luci azzurre si allungavano sul filo dell'orizzonte. La ferrovia automatizzata tutta elettrica di BM & LP. Erano ancora circondati dall'oscurità. Vedevano a stento la strada che avevano davanti. La salvia lungo i margini e qualche stella e le luci azzurre. A un certo punto si materializzò qualcosa che somigliava ad un tunnel. Ecco, disse Smith, quella è la ferrovia. Subito alla fine del sottopasso gira tutto a sinistra. E così fece Bonnie, lasciando la strada che conduceva sciolto per un sentiero sabbioso. Dacci dentro, l'esorta Smith, la sabbia qui è profonda. La grande macchina rombava, scalando automaticamente le marce mentre i pneumatici affondavano nella sabbia, avanzando a strappi, arrampicandosi e scartando sopra le cunette con il fondo che grattava cactus ed erbacce. Stai andando benissimo, tesoro, dice Smith. Vai avanti così, ottimo. Adesso la vedi quella biforcazione? Fermate lì su un lato, da quel punto lì cominceremo a camminare. E Bonnie fece come le aveva detto: luci spente, motore silente, nell'aria l'odore del motore surriscaldato. Scesero tutti e tre, si stirarono e videro l'alba fluire verso di loro mentre nuvole viola si accendevano ad est. Dove siamo? A poco meno di 2 chilometri dal ponte. Siamo stati qui l'altro giorno dalla ferrovia. Non è possibile vedere la macchina dove l'abbiamo lasciata e per una decina di chilometri non ci sono nemmeno capanne indiane. Qui non c'è nessuno, tranne topi canguro e lucertole dalla coda lunga e sottile. Nel silenzio del deserto, sotto un cielo tempestato di stelle e tinto dalla corsa del sole in avvicinamento, si guardarono. Tre piccoli e deboli mortali spaventati si guardarono tra loro. Il mostro non si vedeva ancora. Un tempo morto, ideale per riflessioni sobrie, ordine, decoro, buonsenso, tutte cose buone, sicuri e decenti, per l'amor di Dio. Si guardarono reciprocamente, mostrando sorrisi tremanti sulle loro labbra fredde. Ognuno aspettava che fosse un altro a pronunciare una parola sensata, ma nessuno intendeva farlo per primo. Il dottor Sarves aveva stampato in faccia un largo sorriso e aprì le sue grandi braccia. «Abrazo, compañeros, venite con me!» Si strinsero ed egli li abbracciò tutti, l'esiliata ebrea, il mormone Reyes. Nei suoi ampi tentacoli episcopali libertari anarco-sindacalisti. Siate di buon umore, sussurrò loro. Ci stiamo preparando ad affrontare il drago del potere e a tagliare i suoi artigli. Stiamo per diventare degli eroi ed entrare nella leggenda. Lei si appoggiò al suo ampio petto caldo. Sì, disse tremando di freddo di paura, hai dannatamente ragione. È il capitano Smith, e perché no, diavolo? Al lavoro! Smith e Serves si caricarono ciascuno in spalla una cassa del migliore Dupont e avanzarono faticosamente nella sabbia. Bonnie li seguì con la borraccia, pala e piccone, sulla testa il cappello alla garbo con la tesa floscia. Da qualche parte, nel buio, sopra le dune arrivava il lamento della jeep in trazione integrale. Il demone li seguiva, li raggiunse nei pressi del ponte. Yatta ai Austin! Wake up. sleep brewing like a ceiling, but I'll never spit out the feeling. This dark fever is unstoppable, this burning chill is unstoppable, this blackest wish has taken hold. I'm sorry, it cannot be controlled. Allora, abbiamo letto la prima parte del nuovo capitolo di Sabotatori di Edward Debbie, ora si passa alla controinformazione. Qui abbiamo aperto scommesse perché siamo, cioè, abbiamo aperto lo scommesso anche prossima... noi siamo caduti nel terreno delle votazioni, però su cose diverse, diciamo, fra due minuti che si legge quello che si sarà leggendo, tra poco di controinformazione, non anticipo niente perché sarà chi di dovere a dirvi, ma vediamo quanto duriamo. Vediamo quanto duriamo dopo la durante la lettura della la prossima notizia di controinformazione che andiamo agghiacciante. A leggere. Agghiacciante ovviamente. Cioè, si sta parlando, ci riferiamo a quello che è successo a Roma ad un compagno che è stato fermato da dello schifiguri. Leggiamo l'articolo e speriamo di portarlo a termine prima che ci chiudono la connessione, prima della fine della lettura. Nel caso voi riaggiornate, nella scommessa non si vince niente, ma si vince ci siamo giocati un caffè. Allora, Roma, servizi indiscreti. Ieri 20 maggio 2014, poco prima delle 13, appena uscito dal lavoro e dopo aver messo in moto la Vespa per tornare a casa, sono stato avvicinato da una donna. Credevo volesse qualche informazione stradale, invece, chiamandomi per nome e cognome, si presenta con un po' di imbarazzo per una funzionaria dei servizi segreti. Mi chiede cortesemente di ascoltarla solo 2 minuti al fine di una proposta lavorativa. Declino e rimando, senza darle modo di aggiungere altro, la risposta ammittente in modo meno garbato di lei. Appena partita, urlando, ha ripetuto di farle il piacere di ascoltarla, pronunciando il nome di un compagno che frequento e dicendo che costui già forniva loro dei piaceri. A proposito di ciò, approfitto anche in questa sede per rinnovare tutta la mia stima, affetto e fiducia e solidarietà alla persona tacciata di questa infamia. Niente di nuovo, ovvio, se non fosse che a pochi isolati da casa, mentre mi fermo al semaforo rosso, mi si accosta uno scooter con 2 ragazzi a bordo, casco ed occhialoni da solo indossati. Mi puntano una pistola sotto l'ascella e premono il grilletto più volte. Ovviamente il ferro era scarico, se no non sarei qui. Praticamente una manciata di secondi dopo ripartono facendo inversione, non prima di assicurarmi che la prossima volta la pistola sarebbe stata carica. Confermo che non ho intenzione di sparire dalla circolazione, non ho viaggi in programma e non mi sfiora l'idea di un suicidio. Scrivo per mia tutela e per conoscenza dei compagni, confermando il mio anarchismo determinato e intransigente. Adesso, per onestà, non necessariamente deve esserci un nesso tra i 2 episodi. Il tipo col ferro non ha accennato nient'altro oltre che a quello che ho già scritto. T'assicuro che non ho problemi con nessuno, di nessuna natura, qualche ovvia antipatia, ma è impossibile pensare che questa possa trasformarsi in una minaccia armata. Quindi o le cose sono collegate oppure dei tipi qualsiasi mi hanno scambiato per qualcun altro. Questo in modo sintetico ciò che è successo. Sarebbe da ragionare e discutere molto su queste ed altre dinamiche degli apparati depressivi. Nel frattempo la logica consiglio che ove e quando simili episodi si verificassero di far circolare il più possibile tali nefandezze tra i compagni. La salute sia con voi. E questo era lo scritto del compagno che ci faceva sapere di cosa gli è accaduto. Una cosa agghiacciante, come no, abbiamo detto, ma non nuova. Mettere dubbi al nostro interno, ma noi comunque sappiamo che evidentemente stanno veramente ridotti male. Stanno ridotti male perché poi arrivare a certi punti. Una volta, ne parlavamo poco fa, andavano ad escare compagni che comunque per un periodo o da un determinato periodo non si facevano più vedere nel movimento, assemblee, iniziative. Avevano fatto perdere un po' le loro tracce, quindi loro andavano da questi compagni sperando che avessero cambiato vita e da là ricavarne qualche informazione. Invece ora abbiamo visto che sono molto più trusi, molto più cinematografici. Rozzi, cinematografici. Penso che una pistola puntata all'ascella, no, perché certo, il grilletto infatti... che scatta più di 2 volte faccia un po' di impressione. Si sono gomorrizzati. Si sono gomorrizzati, hanno visto troppe serie TV. E questa era la notizia, sperando che non sia caduta la connessione. Ora controlliamo subito se la connessione è andata avanti oppure ce l'hanno bloccata. Non ce l'hanno bloccata. Quindi ora ci ascoltiamo un brano dei Janitor Tools, Public Enemy, ovviamente, e poi dopo si ritorna qui con il continuo del libro I Sabotatori di Edward Abbey. Clock starts ticking, baby. Think I'm feeling. E sorridendo come un ragazzino ad Halloween, George Washington Hyduck si unì al resto della banda. Lui trasportava quel che rimaneva dell'attrezzatura necessaria: detonatori elettrici, bobine di filo elettrico, spellafili, detonatori manuali, il Dupont numero 50, quell'affidabile vecchio cavallo da somma con la manovella che si spinge in giù. Muovendosi goffamente sulla sabbia nel crepuscolo del mattino, lui si fermò, mentre si fermavano loro, e rimasero quindi tutti e quattro a fissare l'obiettivo primario. Il ponte era di struttura elementare, con le traverse lungo 12 metri, sostenuto da travi a doppio acciaio, appoggiate sul cemento e infilate nelle pareti del canyon e rinforzate con la malta. Sotto il ponte c'era un salto di 60 metri, giù, nel gelo e nel buio del fondo, tra i lastroni di roccia e oltre le spugnose sabbie mobili, un ruscelletto d'acqua brillava come latta, riflettendo gli ultimi baleni della luce stellare. Laggiù crescevano salici, pioppi mal cresciuti e ciuffi d'erba, equiseti e nasturzi. Sotto non si muoveva nulla, non v'era segno di vita animale, anche se il puzzo di pecora era chiaramente inconfondibile. Oltre il ponte la ferrovia curvava, sottraendosi alla vista, tagliando in profondità dentro la catena montuosa. Dal punto in cui si trovava la gang non poteva vedere più di un chilometro di binari in ogni direzione. Ok, vedete, disse Hyduck. Bonne, tu ti arrampichi sopra quella sponda, indicandola con il dito, dalla parte opposta, prendi questo binocolo. Doc, Bonnie disse, hai detto che il treno non sarebbe arrivato lì fino alle 8. Ah, giusto, ma ci hai pensato bene. La squadra della ferrovia, quegli stronzi ficcanaso, vengono giù da questa strada sbuffando con la loro macchinetta a controllare la linea davanti al treno, eh? Dovremmo pur tenerli d'occhio. Stai di vedete, non ti addormentare. Doc, tu, perché non te ne torni indietro dall'altra strada e ti trovi un bel posticino comodo lassù sotto quel cedro? Io invece con il capitano Smith qui faremo il lavoro sporco. Il lavoro sporco tocca sempre a voi, brontolò Bonnie. Hyduck sorrise come un coguaro. Non cominciare già a lamentarti, Abzug. Ho un trattamento speciale per te, dannazione, proprio qui tra le mie braccia. E poggiò a terra il detonatore. Perché stiamo facendo questo? Chiese qualcuno ancora una volta. Non Doc, non Smith. E non dimenticare le bombolette spray, le allungò. Perché? Disse lei di nuovo. Perché? Le spiegò Hyduck un'ultima volta pazientemente. Perché qualcuno deve farlo. Ecco perché. Silenzio. La corsa in avanti del sole. Doc salì su per la collina, lasciando sulla sabbia impronte che si, come se si trovasse su una pista di neve. Bonnie scavalcò la recinzione della proprietà pubblica e cominciò a lavorare sulle travi del ponte con la sua vernice spray mentre raggiungeva l'altra parte. Hyduck e Smith ascoltavano la quiete del mattino, guardavano il flusso crescente di luce sull'orizzonte orientale. Una lucertola corse lì vicino tra le foglie cadute della quercia, producendo dei rumori secchi, l'unico suono. Quando le due vedette ebbero raggiunto le rispettive postazioni e inviato il segnale di via libera, allora Smith e Hyduck presero pinze, piccone, badile e spranga e andarono al lavoro. Avendo ispezionato l'obiettivo due giorni prima, avevano già un'idea chiara di quelle che dovevano essere le loro mosse. Come prima cosa tagliarono la recinzione, poi tirarono via il pietrisco sotto la traversina più vicina al ponte, dalla parte dove era previsto l'approccio del treno. Quando ebbero scavato una buca grande come una cassetta di mele, Hyduck consultò la scheda di demolizione GTA 519, un piccolo oggetto maneggevole, tascabile e plastificato che si era portato dietro della sua precedente carriera nelle forze speciali. Ricontrollò la formula. Un chilogrammo corrisponde a 2,20 libbre, qui servono cariche da 1,25 kg. Allora, per restare sul sicuro, meglio fare cariche da 3 libbre. Ok, Seldom disse, abbiamo scavato abbastanza, ora dobbiamo farne un'altra, un intervallo di 5 traversine. Piazzerò io la carica. Hydak si staccò dai binari, tornò indietro fino alle scatole sigillate in attesa sulle dune. Aprì la prima scatola. DuPont Straight. 60% nitroglicerina, velocità 5500 metri al secondo, azione rapida. Estrasse 6 cartucce, candelotti lunghi 20 cm, pesanti 220 grammi, avvolti in carta paraffinata. Creò un innesto praticando un foro in una cartuccia con il manico, in materiale isolante, della sua pinza aggraffatrice, inserendo un detonatore elettrico nel foro e annodando insieme i reofori dei detonatori. Poi fissò insieme i 6 candelotti con del nastro, facendo in modo di lasciare al centro quello forato. La carica era pronta. La piazzò con attenzione sotto la prima traversina, attaccò un filo di collegamenti ai reofori, tutti i fili chiaramente erano pre-isolati, e rimise a posto il pietrisco, coprendo, nascondendo e tamponando la carica. Soltanto i fili rimanevano esposti, avvolti nelle loro guaine rosse e gialle, e brillavano sulla massicciata. Li sistemò per il momento sotto il binario, dove solamente un osservatore a piedi potrebbe vederli. Controllo delle vedette. Bonnie Habzug si trovava sul filo dell'orizzonte occidentale del ponte. Teneva d'occhio la curva dei binari verso ovest e nord. Lui guardava ad est. Doc era appoggiato al cedro sulla sommità della sponda, fumava il suo sigaro e annuiva rassicurante. Via libera. Hydak preparò la seconda carica e procedette come prima e la piazzò nella seconda buca ormai completata da Seldon. Lavorarono insieme la terza buca a 10 traversine dal ponte. «Perché non facciamo saltare direttamente il ponte?» chiese Smith. «Lo faremo», rispose Hydak. «Ma i ponti sono complicati, ci vuole un sacco di tempo, un mucchio di esplosivo. Pensavo fosse meglio occuparci prima del treno. E il treno arriva da questa parte, esatto, giù dalla Black Mesa, carico di carbone, 8 vagoni con 100 tonnellate ciascuno. Facciamo saltare il binario proprio davanti alla locomotiva e tutto si rovescerà come bicchieri di latta nel canyon. Ponte o non ponte? Tutto dovrebbe. Se non altro siamo sicuri di beccare il motore, che è la parte più costosa. Si incazzeranno per bene. La vecchia Pacific Gas and Electric e il vecchio Arizona Public Service. Eh sì che si incazzeranno, almeno un po'. Il nostro nome verrà sputtanato nei circoli della pubblica amministrazione. Beh, allora vuol dire che diventerà un buon nome. Il sole si alzava, un grande asterisco di fuoco. Hydak e Smith stavano già sudando. Finito il terzo buco, Hydak fissò la terza carica coprendola e tamponandola. Riposando un istante, si sorrisero a vicenda, sorrisi bianchi nelle facce sudate. Che cazzo ti ridi, Seldom? Me la sto solo facendo addosso tutto qui. Tu che cazzo ti ridi? Per la stessa ragione, compagno. Hai sentito la civetta urlare? Il viso di Bonnie Habzug era rivolto verso di loro. Stava agitando le braccia. Anche Doc Service stava lanciando l'allarme. Raccatta gli attrezzi, nascondi tutto. Hydak sistemò i reofori nella terza carica mentre Smith si precipitava verso le dune trascinando vanga e piccone. Hydak esaminò il suo lavoro cercando qualche difetto, ma sembrava tutto nascosto alla perfezione. Si affrettarono a trovare un riparo portandosi dietro i loro attrezzi, lasciando larghe impronte ovunque, ma non c'era rimedio. Si acquattarono e rimasero ad aspettare, ascoltando e sentendo il ronzio e lo sferragliare di un vagone elettrico giù per il pendio. Hydak lancia un'occhiata e vede la cabina gialla quadrata su ruote, i finestrini abbassati con 3 uomini seduti all'interno, uno ai comandi che controlla occhio nudo i binari davanti. Bonnie e Doc sono nascosti dietro i cespugli. Bonnie, sdraiata sulla pancia nella sabbia, vede il vagone avanzare verso di lei, rallentare al ponte, fermarsi nel centro per un momento, ripartire e passare attraverso il taglio profondo sotto di lei, il suono di una risata. Poi il vagone lo vide percorrere la curva, scintille elettriche che si sollevano in aria nei punti di intersezione delle linee di contatto aeree. Il motore che geme, allontanandosi nella quiete, lontano dalla vista e dall'udito. Sparito. La squadra sul carrello si rese improvvisamente conto di lei. Era ferma sul ponte e studiava il graffito in stile Art Nouveau che aveva tracciato sul cemento della spalla, con le sue decorative lettere rosse e nere. Caster, il generale Caster, indossa una camicia di frecce, potere rosso. Si sbottonò la felpa mentre il sole cominciava a calare, infilò gli occhiali da sole fumé e si aggiustò la tesa del suo enorme e disinvolto cappello. Garbo, creta, di vendetta. Vide Hydak uscire con passo pesante dalla zona nascosta, portandosi dietro quello che sembrava un grande rocchetto di metallo, accovacciato e potente. Sembrava più che mai una scimmia antropoide. Darwin aveva visto giusto, come aveva visto qualcuno mettendo Rod Steiger in giù la testa. Seldon Sinsmith arrivò insieme a lui, magro e allampanato. Mutazione. La vastità della vasca genetica, le variabili infinite di combinazioni e permutazioni. Chi, si domandava vagamente, potrebbe essere il padre dei miei figli? Non vedeva nessun candidato probabile nelle vicinanze. Osservando Hydak inginocchiarsi sui binari, aveva visto la lama del coltello baluginare nella sua mano, lo aveva visto dividere e fasciare con del nastro una connessione di filo scoperto. Quando il quarto gruppo di connessioni fu ultimato, Hydak unì le estremità libere dei fili del detonatore ai fili che trasmettevano l'impulso per l'esplosione, realizzando quindi un circuito esplosivo con quattro collegamenti indipendenti. Aveva quindi proceduto a srotolare i fili di adduzione dal ponte lungo il bordo del canyon fino a un punto nascosto dal luogo dell'esplosione, sotto una roccia sporgente. Aveva messo giù la bobina e aveva seguito i fili indietro fino ai binari mentre camminava. Spingeva i fili oltre l'orlo del canyon, lasciandoli penzolare nel vuoto nascosti alla vista, ovvero da qualsiasi sguardo proveniente da est. Arrivato ai binari, prese i fili esposti, li attaccò con del nastro all'anima della rotaia, sotto il fungo, nascondendo anche quelli. Lo vide parlare con Smith, vide Smith assestargli un colpetto leggero alle costole, li vide appoggiare le mani sulle spalle dell'altro come una coppia di lottatori di sumo, pronti ad attaccare. C'era qualcosa nel modo in cui si sorridevano, qualcosa nel loro modo di stare insieme, e c'era qualcosa che la irritava e la offendeva. Tutti gli uomini nel cuore, pensò, dovrei dire forse in fondo, tutti gli uomini sono in fondo dei veri froci. Pensa alle pacche sul culo che si scambiano i giocatori di football quando corrono sul campo o escono dalla consultazione sulla tattica da seguire. Il quarterback greco e il lineman nervoso, froci come vongolo. Come vongole. Anche se nessuno ovviamente aveva la decenza e l'onestà o la spina dorsale per ammetterlo, e naturalmente sono tutti gli uomini davvero uniti contro le donne, i porci. Chi ha bisogno di loro? Guardò con bramosia i due mentecatti sotto che si bramavano a vicenda. Una coppia di pagliacci froci come aliotidi. Almeno Doc aveva un po' di dignità, anche se non troppa. E comunque dove si era cacciato? Doc in ogni caso scrutò. Scrutò con impegno e alla fine lo scovò all'ombra di un albero, la testa abbandonata in avanti, che stava dormendo in piedi. Gesù, pensò, anche questa anarchia criminale è un lavoro noioso che fa dormire. Il suo nome si innalzava nella luce del sole, le facce erano rivolte verso di lei, quel tremore bisillabo si spostava ondeggiando nell'aria, superandola e diffondendosi oltre. Bonnie! E questi erano Assoziando di Noel Biden con il brano Alles wieder offen, l'ho pronunciato bene stavolta. Benissimo, Marcello, benissimo. Me l'ha detto prima che finisse il brano. Ora leggiamo la prossima notizia di controinformazione, che è un testo del compagno Adriano Antonacci, il compagno arrestato insieme a Gianluca, che ha rivendicato gli attacchi. I compagni furono arrestati il 19 settembre scorso per una serie di attacchi, come dicevo poco fa, tra cui alcuni rivendicati da Gianluca, non tutti. Allora, leggiamo il contro le nocività. Leggiamo il testo che ha divulgato la cassa di repressione Alpi Occidentali. Spendo solo poche parole a sostegno della scelta di non presenziare all'udienza del 26 maggio eventualmente alle prossime, essendo stata disposta la videoconferenza. L'applicazione di tale dispositivo rientra per ora nell'infame logica della differenziazione dei circuiti detentivi, dove l'individuo recluso e imputato viene demonizzato e disumanizzato data la notevole pericolosità sociale. Sperimentato nel 41 bis, vuole ora estendersi ai prigionieri classificati ad alta sorveglianza e in ogni processo dove la solidarietà e conflittualità sono o potrebbero essere caratterizzati e quindi elementi di disturbo e opposizione per chi, applicando codici vestaglia e bavaglino, svolge il proprio lavoro decidendo sulla libertà fisica altrui, non possedendo peraltro alcuna virtù ma avendone facoltà, dato il diritto, data la legge. La videoconferenza pone limiti ben precisi a discapito di chi è sotto processo, favorendo da ogni punto di vista accusatori e giudicanti. Ragionando poi ad ampio raggio, le limitazioni potrebbero non riguardare solo l'ambito processuale. Considerate le magnifiche sorti del progresso, da tale strumento di contenzione, anche per ragioni economiche, vorrà un domani estendersi ulteriormente a dilegare in molti, se non in tutti, i processi. Non ci vuole poi molto ad allestire stanzette con schermi, microfoni e telefoni. Loro signori sempre troveranno una valida motivazione per giustificarne l'impiego. Come ovvio che sia, la non neutralità dell'avanzata tecnologica si mostra in ogni ambito e sempre rivela l'essere asservita al potere. La virtualizzazione di un processo, per quanto significativa, è in fondo poca cosa comparata alle nefandezze dell'autorità, in questo caso giudiziaria, ma è comunque indicativa in relazione a quella che è la virtualizzazione della vita, volta a controllare e annichilire dove vengono meno emozioni, espressività e sensorialità, dove viene meno la bellezza stessa della vita e la libertà di viverla realmente. Mi risparmierò quindi di sentirmi uno scemo, ritrovandomi seduto davanti ad uno schermo per assistere inerme ad un teatrino che vedrà come protagonisti assenti me e mio fratello Gianluca. Sarà quindi un giorno di galera come un altro, dove la rabbia è una costante, ma si cerca, per quanto sia possibile, stabilità e un po' di serenità. Non nascondo la tristezza di non poter rivedere e magari riuscire ad abbracciare le persone a cui tengo e sentire il calore dei compagni solidali. Solo nella lotta alla liberazione, solo nell'anarchia alla libertà. Adriano, 17 maggio 2014. Sì, vogliamo ricordare che questa cosa della videoconferenza per il processo di Adriano e Gianluca è venuta dopo la seduta nel tribunale di Genova di Alfredo Costa e Nicola Gai, in cui invece la presenza solidale di compagni di sotto ha creato non pochi problemi e non poche contraddizione a quella che era la lettura di un dispositivo. Loro hanno capito che comunque certi compagni non riescono ad isolarli in base a delle accuse. Infatti proprio per il processo di Alfredo e Nicola non c'era stata solo la presenza dei compagni, che comunque sono sempre stati solidali e vicini a certe idee che appartengono pure ad Alfredo e Nicola, ma anche di buona parte anche del movimento NoTap, che aveva fatto presidio proprio fuori dall'ala del tribunale. Queste cose danno fastidio al potere, danno fastidio perché ovviamente uno carica di accuse a terrorismo, cerca di impaurire, intimorire, e poi si ritrova con la gente fuori tribunali, nelle aule dei tribunali, nonostante i filtri e la selezione, nonostante i 30 per forza, non i 130, i 230, i 1030, non sappiamo, ma si sono inventati la videoconferenza. Speriamo che questa sia la prima e l'ultima, almeno nei processi si potrà vedere, avere modo di vedere e mandare un saluto da vicino, di persona, anche se non vado da vicino, oltre le gabbie, ai compagni detenuti. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Hello Black con il brano It's Bizarre, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Sabotatori di Edward Ebbey. Haiduck, Doc e Bonnie raccolti attorno alla bobina del filo. Smith stava invece lavorando sul ponte. Haiduck tagliava i cavi mentre Doc e Bonnie guardavano, separavano i fili e tiravano via un paio di centimetri di guaina di plastica da ogni filo di rame brillante. Questi stronzi, spiega, vanno qui, e li accosta ai due terminali sul detonatore. Questo stronzetto invece, mollando i cavi e sollevando la manovella del detonatore, va su così, la solleva completamente. Quando i fili sono collegati ai terminali e schiacci giù con più forza che puoi, non ti preoccupare di rovinare la macchina, non puoi rovinarla, vai avanti e cerca di raggiungere il fondo. Beh, quando fai così mandi una corrente attraverso il circuito e l'elettricità fa esplodere le capsule. Le capsule a loro volta fanno esplodere gli inneschi le cariche, beh, poi lo vedrai. Ma devi spingere su quella manovella in giù con tutta la tua forza, come se agganciassi uno di quei vecchi telefoni di campagna. Se non aggancia abbastanza forte, non riesce a inviare il segnale di chiusura. Guardando Bonnie, mi stai ascoltando, Bonnie? Sì, ti sto ascoltando, Hydak. Che cosa ho detto? Ascolta, Hydak, io sono laureata in lingue, non sono una perditempo come qualcuno qui in giro che conosco, di cui non faccio il nome perché nomi non mi piace mai farne. Ok, allora facciamo la prova. E svitò le capsule dei terminali del detonatore e ci piazzò sopra i suoi polpastrelli. Dai, prova. Schiaccia giù quella manovella, dammi una carica. Bonnie afferrò la manovella e la pigiò giù. La sua corsa si fermò contro la parte superiore della scatola di legno. Ho sentito solo un formicolio sulle dita, disse Hydak, ma appena appena. Prova di nuovo, su, sbattila giù, distruggila. Lei tirò su la manovella, prese un grosso respiro e l'abbassò. Mentre si schiantava sulla scatola, la mano di Hydak si sollevò rimbalzando in un repentino riflesso galvanico. Così è meglio, questa volta l'ho sentito. Ok, Bonnie, vuoi essere tu l'artificiere dell'operazione? Qualcuno deve pur farlo. Doc, certo, lui, Doc, può starti vicino, controllare la procedura, aiutarti. Io sarò nel posto da cui potrò vedere il treno arrivare, e quando il treno sarà nel punto giusto, io ti farò un segnale. Così sollevò un braccio e si interruppe. Quando alzo il braccio, tu tiri su la manovella del detonatore, tieni lo sguardo fisso su di me. E quando abbasso il braccio e lascio cadere il braccio al suo fianco, tu sbatti giù quell'affare, forte. E poi? Poi ce la fileremo via di qui il più in fretta possibile. Tu e Doc prendete la station wagon, io e Smith prenderemo la jeep. Dovremo avere un'ora prima che mandino gli aerei, così per un'ora devi guidare come il demonio, poi ti fermi da qualche parte sotto un albero e aspetti la sera. Prendi la vecchia strada sterrata per Shonto. E ci incontreremo di nuovo a Betatakin stanotte per celebrare la vittoria. Non guardare mai gli aeroplani in cielo. I visi pallidi si vedono benissimo dall'alto. Comportati come se niente fosse. Mantieni la calma. Se qualcuno ti rivolge la parola, fai come se fossi una turista. Doc, tu mettiti Bermuda. Non ce li ho, George, ma mi arrangerò, tu... Tu tieniti sugli occhiali protettivi, non lasciare vedere agli indiani quel lampo folle che c'è nei tuoi occhi. Certo, dice Bonnie, dov'è il bagno? E scomparve dietro le dune di sabbia. Doc appariva abbattuto mentre la osservava allontanarsi. Qualcosa non va, chiese Hydak. Sembri malato, Doc. Doc sorrise, fece spallucci. Un po' di magia nera sta lasciando la mia vita. Intendi lei? Vuoi parlarne adesso? Magari più tardi, dice Doc, e ritornò nella sua posizione di vedetta. Hydak raggiunse Smith al ponte, che stava lavorando sulla spalla orientale con pala e piccone. Questo è un lavoro da schiavi, George. Lo so, dice Hydak, abbiamo bisogno di un martello pneumatico e di un compressore, come hanno tutti. Dobbiamo studiare un po' meglio il progetto. E si appoggiarono sugli attrezzi e contemplarono l'opera fatta. A giudicare dai progressi registrati fino a quel momento, sembrava occorressero ancora 2 settimane di lavoro interrotto per scavare a mano dei fori tra la spalla del ponte e la parete del canyon. Allora Hydak decise di tentare con una tattica più semplice, anche se meno sicura. Proveremo a tagliare le travi, disse. Dove ci sono i giunti? Lascia perdere la spalla, non abbiamo più tempo. Diede un'occhiata al suo orologio. Abbiamo ancora mezz'ora. Se il treno non è in anticipo, guardo su dove era di vedetta Doc, tutto tranquillo. E Bonnie dov'era? Era tornata a fare pratica con il detonatore. E chissà quanta corrente parassita veniva da pensare può scorrere in questi binari. La ferrovia tutta elettrica. 50.000 volt sopra le nostre teste. Aria ionizzata. Gesù Cristo! Si sarebbe dovuto usare micce a combustione lenta, ma abbiamo bisogno di tempi precisi, altrimenti tutto il piano, il nostro piano, va a pallino, va a farsi fottere. Sapeva di aver lasciato. Il conduttore della linea di tiro tagliati fuori dal detonatore, ma un bambino, persino Bobby Habzug, avrebbe potuto agganciarli. Ma dov'è quella ragazza? Maledizione, maledizione a lei! Nervi, nervi. Si arrampicò fino ai binari e disconnesse il conduttore della linea di tiro dal reoforo, interrompendo il circuito. Adesso si sentiva un poco meglio. 3 vite umane lì intorno, 4, contando la sua, se voleva metterla nel conto. Avrebbe dovuto fare quel lavoro da solo, o al massimo con Smith, Doc e Bonnie, quegli innocenti lì. Portarli lì era stato quello il vero errore. Meglio accelerare. Ma quanto, quanto? Stava chiedendo Smith. Quanto? Ah sì, le travi a doppio T, alte circa 60 centimetri sull'anima. Avrei dovuto pensare a tutto questo prima. Allora, spessore 2 centimetri, controllò la sua scheda di mostrativi, 4,0 grammi chili. Flange larghe 30 centimetri circa, strisciò sotto il ponte e le misurò con il righello stampato sulla scheda, circa esattamente 18-19 centimetri di spessore. Consultò la tabella stampata, 4 per l'anima più 3,6 per le due flange fanno 7,6 kg di TNT per ciascuna trave. Abbiamo 3 travi, ce ne vuole un'intera cassa e poi un po' o circa, vediamo, a meno che non abbia fatto male i calcoli da qualche parte, vediamo. Il vecchio Smith è là che aspetta con l'aria preoccupata, Doc è preoccupato che Habzug si conceda le libertà. Merda, avrei dovuto usare un limitatore di pressione, 22,8 kg TNT, aggiungiamo il 10% per la dinamite, dinamite a base attiva 25, è meglio se portiamo 2 casse, disse. Le presero, le portarono indietro e le posarono sulla lastra di cemento sotto il ponte. Haidak tagliò il nastro sigillante, sollevò il coperchio della cassa e aprì il rivestimento in polietilene. I candelotti, lisci e grassi nei loro involucri rossi, lucidi, comodamente impacchettati, 102-106 per scatola. Beh, loro apparivano, sì, apparivano definitivamente potenti, sensibili a urti e frizioni, altamente infiammabili. Le mani di Haidak tremavano leggermente mentre estraeva i candelotti a gruppi dalla scatola. Smith aprì l'altra di scatola. Non mi piace questa roba, George. Ci farai l'abitudine, mentì Haidak. Non ne sono sicuro di volerlo. Non te ne faccio una colpa. È pericoloso abituarsi a quelle cose. Lascia che prepari io le cariche, tu tira fuori i sacchi dalla jeep. Contò i candelotti di dinamite, 34 per gruppo, ne aggiunse 5 come augurio e li strinse insieme con del nastro. Quali sacchi? Quelli là sul davanti della jeep, sotto il sedile del passeggero, ci sono una decina di sacchi di tela. Li riempiremo di sabbia per borrare le cariche. Dove è finita la scatola delle capsule? È lì, George. Smith si alzò e scomparve. Haidak preparò l'innesco del candelotto al centro del primo gruppo. Lo legò con un mezzo nodo, spinse l'innesco indietro al suo posto e assicurò con il nastro il gruppo all'interno della prima trave a doppio T, lasciando penzolare sul cemento i reofori di detonazione. Preparò e piazzò la seconda e la terza carica. Collegò i reofori alle micce. Il circuito era di nuovo completo. Mancavano soltanto le connessioni finali con il detonatore. Tutte le cariche erano state piazzate. Smith tornò con i sacchi, li riempirono e bordarono le cariche. «Siamo pronti per l'esplosione!» sussurrò Haidak. Bonnie li stava raggiungendo. Smith abbassò la voce e disse: «Sei sicuro di volerle lasciare a lei maneggiare il detonatore?» Haidak esitò lanciando un'occhiata verso Bonnie prima di ritornare con lo sguardo su Smith. Sudando, tremando per la tensione nervosa, si fissarono a vicenda, l'odore di ascelle pelose nell'aria, l'odore, sì, l'odore della paura. Seldom dice: chiamiamola così, chiamiamola democrazia. Smith aggrottò le sopracciglia. Cosa? Democrazia oppure partecipazione? Dobbiamo lasciare fare la sua parte anche a Bonnie. Smith appariva incerto. Il sudore brillava come grasso sulla peluria pallida del suo labbro superiore. Beh, dice, non lo so, partecipazione. Complicità, aggiunse Aidak, giusto? Non possiamo più permetterci di avere con noi dei possibili innocenti, giusto? Smith studia Aidak. Non ti fidi di nessuno, vero, compagno? No, adesso non mi fido di nessuno, non mi posso sfidare di qualcuno così in fretta. Abzug arrivò come la brezza, il cappello lasciato pendere sulla schiena, un alone di luce solare a illuminare da dietro i suoi capelli color mogano. Allora tutto bene, fece disinvolta, adesso basta blaterare, c'è un sacco di lavoro da fare qui intorno. E in testa non hai niente, ringhia Aidak. Questo, gli mostrò il cappello che pendeva sulla schiena, il casco. Non ti scaldare, Aidak, cosa sei dunque, una specie di maniaco paranoico? Quando è l'ultima volta che hai visto il tuo strizzacervelli? Scommetto che il mio strizzacervelli, il tuo, se lo mette in tasca. Dov'è il casco? Non lo so. Smith si piegò vicino alle rotaie, la mano e l'orecchio su un binario. Vibrazioni solenni nel ferro. Sta sicuramente arrivando qualcosa, George, adesso, qualcosa di grosso. Una civetta solitaria urlò. Sollevarono lo sguardo verso la corona della sponda orientale, alla silhouette del dottor Sarves stagliata contro il sole del mattino, le sue braccia erano tese in alto, le mani si agitavano come uccelli impauriti, il binocolo appeso al collo oscillava in allarme. Treno! Treno! Zug! Grida. A quanto? Urla a sua volta Aidak. Doc riprende il suo binocolo, risistema il fuoco e studia la scena verso est. Abbassa il binocolo, si volta di nuovo. Circa 8 chilometri, strilla. Ok, allora scendi giù tu. Aidak si rivolge a Bonnie. Mettitelo su quella testa di cavolo. Le passa il suo casco, lei lo mette in testa, le scende a coprire le orecchie. Torna al detonatore, ma non sollevare la manovella fino a che io non ti do il segnale, e non uscire da quella specie di grotta fino a che io non ti dico che puoi uscire. Lei lo fissa, gli occhi brillano di panico e delizia. Una contrazione involontaria del suo sorriso cinico le increspa le labbra. Beh, dice lui, che hai da fissarmi? Fila! E lei, va bene, va bene, va bene, non ti scaldare. E si dilegua lungo l'orlo del canyon. E questi erano Crisma con il brano Crucial Point. Ora si ripassa alla controinformazione con una notizia, o meglio una rivendicazione, che arriva dall'Inghilterra, più precisamente a Yate, dove è stato attaccato un tribunale. Leggiamo il testo rivendicativo, che ha per titolo Rivendicazione: la solidarietà non conosce legge. Abbiamo attaccato col fuoco il tribunale in centro a Yate il 22 maggio, 10 bombolette di gas sono state abbastanza per devastare l'ingresso con un napalm autoprodotto come detonatore. Abbiamo scelto le prime ore per evitare feriti, la guerra sociale non dorme e qualunque ora degli insorti sono svegli e furiosi, rabbiosi per le imposizioni del sistema vigente che ci vuole come suoi ingranaggi. Questa notte è toccata a noi. Nuovi e più grandi centri di custodia, più leggi restrittive, ingiunzioni e legislazioni per comportamenti antisociali, ridotto aiuto legale per sfavorire dei poveri, numeri da chiamare per fare delazioni, vari tipi di poliziotti si infiltrano negli strati della società, libertà vigilata per inserire i condannati nel mondo della schiavitù salariale e del consumismo, un intero mondo prigione di città, di cemento e controllo gestito dal potere, armato di telecamere, rilevamenti biometrici ed elettronici per difendere il proprio benessere e ordine sociale. E a realizzare questo disciplinamento autoritario dell'individuo contribuiscono pure i tribunali. Rinforzi della miseria umana, senza vergogna, applicano leggi emanate dalle classi superiori, da politici e uomini d'affari, scagliandole contro la gente sottomessa che soprattutto cerca di trovare mezzi di sussistenza, mentre il capitalismo mette tutti contro tutti. Il sistema giudiziario cerca di passare come l'unica protezione della vera disperazione e della disuguaglianza che la società civilizzata crea. La sua vera funzione ed è sempre stata proteggere e sacrificare la proprietà e il privilegio sopra ogni cosa, e saccheggiare le comunità libere o gli individui dotati di autonomia. Il sistema non è interessato a cambiare le fondamenta che causano gran parte del crimine, povertà, alienazione, noia, eccetera, in modo serio. Semplicemente ne gestisce la distribuzione mentre fomenta lo scontro tra sfruttati. Questo è vero soprattutto ora, visto che il mercato trae grande profitto dal lavoro sottopagato dei prigionieri e dal settore della detenzione privata. Tutto resta al suo posto, cosicché i quartieri dei padroni e dei giudici restano santuari liberi dallo scontento della società che mantengono, un santuario che vogliamo totalmente distruggere. Al cuore della prosperosa Europa c'è una vasta sottoclasse moderna di disoccupati, criminali e illegali. Quasi tutti gli altri sono ancora lontani dai lavoratori industriali dell'ultimo secolo. E chi è principalmente disciplinato dal welfare, controlli dall'immigrazione e ovviamente del sistema giudiziario. La nostra è l'era del lavoro a tempo determinato, della necessità di essere flessibili come una risorsa a disposizione della classe proprietaria, e infiniti lavori che annebbiano il cervello con alto ricambio di personale insoddisfatto e alienato. L'illegalità e il mercato nero sono una fonte di vita per milioni di persone condannate alla povertà, ai margini di una società i cui destinatari di welfare sono sempre più descritti come devianti o criminali. Una volta che ti hanno imprigionato o inserito nelle pratiche per il sussidio, puoi essere costretto a lavorare sotto la minaccia di ulteriori punizioni e reso produttivo sotto condizioni di lavoro schiavizzato, risolvendo così una delle contraddizioni del capitalismo. E anche gli amministratori del complesso carcerario industriale devono ricordare che non hanno il potere assoluto che vorrebbero avere per agire impunemente. Gli sgherri di Sodexo hanno capito ciò solo 2 mesi fa, quando più di una cinquantina di detenuti ha preso il controllo di un padiglione nel carcere di Northumberland. Ogni tipo di guardia in questo infernale mondo carcere contano sugli sfruttati non per ribellarsi consapevolmente e iniziare a fare piazza pulita di ogni forma di sistema controllo che ci limita. Il 22 maggio e ogni altro giorno a nostra scelta abbiamo dimostrato che si sbagliano. Come risultato dell'esplosione, molte finestre sono andate distrutte e la vettura del tribunale è andata in fiamme. Come chiunque può vedere, il potere non è intoccabile. Qui c'è un singolo esempio tra tanti che chi vuole può portare lo scontro di nuovo nelle strade, negli uffici o case della gente pienamente responsabile dell'amministrazione del dolore, e del causare sofferenze a noi e ai nostri cari che vengono umiliati in quei posti. Questo non finisce qui. Per una totale fine di ogni carcere, non solo di quelli più concreti, l'intero insieme di confinamento e domesticazione, sia tramite sorveglianza, polizia dell'intervento leggero, moralità impiantata, costruzione di genere, schiavitù salariale, ruoli, classi sociali, città, eccetera. Sappiamo che esistono ancora delle individualità in questi tempi miseri che stiamo vivendo, che affrontano il sistema giudiziario come combattenti con dignità e senza autocommiserazione, e i nostri cuori sono con loro. Anche quando la prospettiva della prigionia smette di incrementare la nostra furia, possiamo comunque essere forti. Menzioniamo soprattutto Gabriel Pombo da Silva. Molti anni di isolamento per rivolte criminali realizzate fin dalla sua giovinezza hanno fallito finora nel voler neutralizzare il suo desiderio di vivere. Nicola Gai e Alfredo Cospito sono chiusi e condannati a tanti anni per aver sparato a un dirigente di una compagnia nucleare e, come si vede dalle loro lettere e dalle loro lotte carcerarie, non hanno perso l'iniziativa. Babis Tsilianidis partecipa in una delle comunità in lotta nel carcere di Corida Los, pieno di più anarchici di quanto possiamo nominarne, che sabato le funzioni ufficiali cercando di indebolirli e annichilirli. E il guerriero liberatore Marco Kamenich, sempre lucido, la cui detenzione pluridecennale è continuamente rinnovata dall'autorità. Ai restanti anarchici che volano alto o stanno bassi, per opporsi a Granciulì negli Stati Uniti, a Felici di Rider e ora anche a Mario Lopez in clandestinità in Messico, a prigionieri notato così come ad Adriano Antonacci e Gianluca Iacovacci, presto a processo in videoconferenza dalle sezioni di alta sorveglianza in Italia. Il vostro rifiuto di arrendervi è fonte di ispirazione. Maurizio Morales, che tu possa vivere di nuovo, elemento libero e selvaggio che danza nelle fiamme. A motivare la nostra azione è stata anche la parte che la giustizia ha nel sopprimere le situazioni insurrezionali quando avvengono. I tribunali hanno lavorato a pieno regime mentre nell'estate del 2011 le rivolte infuriavano, dando dure condanne ai ribelli catturati e ad altri sospetti. Come sappiamo, essi faranno quando il controllo verrà contestato. Ma noi sicuramente non siamo spaventati dalla possibilità di andare faccia a faccia con gli ipocriti imparruccati o con i loro tirapiedi carcerieri, anche quando le occasioni di incontro sono a loro vantaggio più di quanto vorremmo. La repressione aumenterà il conflitto anche oltre i confini. I nostri metodi sono adatti al compito. Costruire una forte affinità tra noi stessi, una sincera passione per la libertà e la diffusione di comportamenti ribelli e azioni sono la base della nostra pratica. Questo è per tutti quelli che restano impenitenti qualunque cosa accada e da qualsiasi lato del muro del carcere. Lunga vita all'anarchia, Federazione Anarchica Informale, Conscience and Fury. Questa era la rivendicazione dei compagni inglesi per l'attacco al tribunale di Yate. Avevamo appena parlato prima della lettura di Sabatori del processo video sorveglianza di Gianluca e Adriano. Una risposta buona arriva dall'Italia. Pratica affermativa. All'Italia arriva poco. Arrivano i comunicati in solidarietà. Non la facciamo così tragica. Ora ci ascoltiamo un brano di Dance or Die, World on Fire, e poi dopo si ritorna qui con i sabotatori di Edward Abbey. Quasi le 19 senza più interruzioni, allora è vero che il turno maledetto finisce. Chissà alle che sorprese. Alle 5 e quarto. Chissà 5. Che sorprese. Quest'anno si trovano a casa. Il cambio di turno prima. No, può essere una cosa automatica. Può essere una cosa automatica, però noi auguriamo di trovare delle sorprese. Ma noi andiamo avanti. Noi andiamo non avanti, spostiamo la diretta alle 5:30. Poi faremo la diretta alle 5. Gli daremo pure la soddisfazione il contentino di fare qualcosa. Quindi sarebbe facile, se è una cosa in automatico, partire con la diretta alle 5:30 e andare tutto liscio. Anzi, creeremo anche un qualcosa intorno all'interruzione, cioè andiamo oltre l'interruzione e soprattutto continuiamo ad augurargli un bel Andy ritorno Farm a casa carico di sorprese. Carico di sorprese. È uno stipendio investito in medicine. Medicine, mandi quelle là care. E nel frattempo, Seddon Sin Smith sta raccogliendo tutti gli attrezzi e si sta caricando in spalla la cassa di dinamite mezza vuota, la scatola di capsule, gli spellafili, pezzi e pezzettini di filo, il rotolo di nastro. Tutte queste altre cose sono rimaste ancora sulla lastra di cemento sotto il ponte, contro la spalla d'acciaio dove Bonnie ha tracciato con lo spray un magnifico ricamo di lettere rosse e nere carbone. Con la scritta Oka, hey, Oxkinni è tornato. Una vibrazione sinistra nei binari si fa sempre più vicina. Andiamo, il dottor Sarvis è ancora sulla collina che li osserva. Sta arrivando il treno, urla. Vieni giù, urla Smith, dobbiamo far esplodere le cariche. Doc scende per il pendio con passo pesante, con ampie falcate attraversa la sabbia, mentre la sua ombra mattutina si allunga per 6 metri, proiettandosi liberamente su querce di gambe le stentati fichi d'India e altri organismi vegetali. Una corona di luce ardente brilla dietro la sua testa con il casco. Incidente! Finisce con il muso a terra su una duna. Scarponi e piedi confusi, traditi. A loro giunge la pacata imprecazione da un innocente cespuglio. Traditi. Si rimette in piedi e in marcia, ritto, dignitoso, imperturbato dal mero contrattempo di gravità e casualità. Fallugia paradoxa, spiega, togliendo la sabbia dagli occhiali. Siamo pronti. Naturalmente per Aidak le vedette non hanno segnalato il momento esatto che serviva a lui. E allora decide di salire laddove era stato Doc. Rapidamente Doc e Smith raggiungeranno Bonnie al detonatore. Smith per collegare le micce e riprendere i segnali da Hydat. Doc per supervisionare Bonnie ai controlli. Al riparo della pietra sporgente sotto il bordo del canyon, Smith individua i fili di adduzione e ne segue la traccia fino alla scatola dove li trova assicurati e abitati stretti nei terminali. Che mi venga un colpo, Bonnie, li hai già collegati? Certo, risponde lei. Beh, porca puttana, siamo qui tutti a meno di 3 metri da 50 kg di dinamite a base attiva. E allora? Ma nel frattempo Hydak sta scalando la collina, scivolando e slittando nella sabbia, aggrappandosi ai fichi d'India, alle querce spinose, raggiunge la vetta a carponi, ansimando come un cane e guarda a est, attraverso il taglio della linea ferroviaria, a largo naso, agli occhi bianchi, al rombante muso di una locomotiva distante 200 metri che avanza lenta ma costante, prossima a sfilare sotto di lui e oltre le prime 3 cariche direttamente sul ponte. Guarda indietro in direzione della squadra di artificieri e non vede nessuno, cazzo. Poi Smith emerge da un montarozzo di arenare e gli dà il segnale che tutto è a posto. Hydak annuisce. Il treno automatico avanza cieco, brutale, potente, oscillando sui binari intorno alla curva. Archi elettrici lampeggiano e gracchiano mentre il locomotore con l'asta per la presa di corrente, sollevandosi e ricadendo nel suo telaio con azione a molla sul cofano del motore, collega le sinapsi della linea elettrica. Dietro il motore c'è la massa principale, 80 carrelli, carichi di carbone che entrano nelle pagine della storia a 70 km orari giù per il pendio, rallentando in vista della curva. Haidak alza il braccio, lo sguardo è fisso sulla 15ª traversina indietro a partire dal ponte, il braccio teso in aria in posizione di ghigliottina. Sente, annusa, percepisce il treno che scorre sotto di lui, il motore che procede, gli toglie la visuale del punto preciso per l'esplosione, agita la mano e abbassa il braccio, un gesto vigoroso e inconfondibile. E vede nel preciso istante in cui la sua mano atterra sul fianco il viso di un uomo affacciato dal finestrino aperto nella cabina della locomotiva, un uomo che lo sta guardando, un giovane dall'espressione serena, abbronzato e allegro, con una dentatura invidiabile, gli occhi chiari, che porta un berretto con la visiera e una tuta di twill marrone aperta sul collo, fedele alla tradizione come un bravo ingegnere. Il ragazzo, l'uomo, risponde al saluto di Haidak, il cuore a rischio di infarto, il cervello è a corto di ossigeno. Haidak si getta a terra con le mani lucchettate sul capo in attesa che la terra tremi del terremoto, delle schegge che sibilano vicino alle orecchie tappate, degli odori della cordite che penetrano nel naso. Aspetta Haidak che l'urlo abbia inizio e la rabbia più che l'orrore a ottenebrargli la mente. Mentivano, pensa, i figli di puttana mentivano. Che aspetti? Non ce la faccio, geme lei. Smith, 20 metri distante, impotente, li osserva. Bonnie piegata sulla macchina infernale, Doc piegato su di lei. Lei stringe la manovella sollevata, le nocche bianche per lo sforzo, gli occhi sono strizzati e all'angolo di ognuno brilla una perla di lacrima. Bonnie, spingila giù, Dio cane! Non posso, perché non lo so, non posso e basta. Doc intravede il motore che tuona sul ponte e sparisce dietro la curva, seguito con intermezzo di piccoli lampi di luce del giorno dall'implacabile monotonia dei carrelli colmi di carbone grigio scuro. Polvere nera si sparge nell'aria altrimenti tersa, accompagnata dal gratta e sfrega dell'acciaio, dall'odore piatto di ferro, dal rombo dell'industria che rovina ogni cosa nella dolce terra desertica di Dio. Il dottor Sarvi si sente montare dallo stomaco un'ira funesta. Le peli di Achille, diremo noi. Vuoi spingere giù quell'affare, Bonnie? Sì, Wupli. Non posso, geme lei, mentre le lacrime le rigano le guance. Lui è in piedi alle sue spalle. Lei sente il suo inguine e la sua pancia che le premono contro la schiena. Lui si sposta leggermente di lato, avvolge le sue sensibili manone da chirurgo sopra le sue, serrandole con forza sopra la manovella del detonatore, costringendolo a piegarsi con e sotto di sé. Schiaccia il pistone con forza attraverso le spirali di resistenza radiante. Giù, tutto giù, fino in fondo nelle cervici, nel ventre della scatola ammortizzata. Vum, blam. Lui mantiene la posizione. Oh no, si rende conto lei con un attimo di ritardo, mentre pezzi e frammenti di schegge di carburante fossile e materia inorganica tracciano iperboli paraboliche aggraziate e suggestive nella volta celeste sopra la sua testa. Quella è da sempre che la posizione che lui preferisce. Grazie, madam. Haidak nel frattempo era rimasto in attesa. Quando non era accaduto nulla, aveva aperto gli occhi e sollevato il capo in tempo per vedere la locomotiva brontolare oltre il ponte minato, dileguarsi dal lato distante ed entrare nel taglio trascinando il suo treno di vagoni. Tirando un sospiro di sollievo, aveva cominciato ad alzarsi in piedi. In quell'istante le cariche esplosero, il treno si sollevò dalle rotaie mentre grandi palle di fuoco spuntavano come funghi sotto la sua pancia. Haidak si gettò di nuovo a terra mentre pezzi di acciaio, cemento, roccia, carbone e cavo sfrecciavano accanto alle sue orecchie e ascendevano in cielo. Nel medesimo istante i carri ferroviari carichi di carbone completando il loro balzo, atterravano sul ponte distrutto, partite le travi. Il ponte affondò come plastica fusa e uno dopo l'altro i carri di carbone legate come salsicciotti ruzzolarono oltre l'orlo, scomparendo nel frastuono, nella polvere, nel caos della gola. E dall'altro lato del ponte? Rovina. Nient'altro che rovina, linee abbattute, cavi a terra, la locomotiva elettrica costretta a fermarsi, ormai impotente. Adesso stava tornando indietro, involontariamente, con i freni bloccati, scivolando, senza poter opporre alcuna resistenza verso un disastro multimiliardario. Ancora legato a doppio filo al treno, il locomotore stava per essere trascinato dal peso dei vagoni che cadevano nel canyon. Haidak guardò mentre il giovane, l'ingegnere col cappello, con la visiera, il supervisore, il controllore, qualunque cosa fosse, usciva da un lato della cabina, scendeva due piori della scala in acciaio e saltava. Atterrò senza difficoltà, attutendo l'impatto con una breve corsetta sul terrapieno, e si fermò nel fossato, le mani sui fianchi, in piedi. Fu testimone, come George Washington Haidak, della distruzione del suo treno. La locomotiva slittò con le ruote rigide e urlanti verso il ponte demolito, rotolò e cadde fuori dalla vista. Un istante dopo, il boato dell'impatto salì in cielo. Boom! Il corpo principale del convoglio continuò a piroettare giù per il pendio, via dai binari deformati, attraverso le macerie del ponte, per fracassarsi vagone dopo vagone, ripetitivo come una produzione di massa, dentro il dolore e la confusione dell'abisso. Niente poteva essere fatto e nulla venne risparmiato. Ogni singolo carro, come una pecora sognante, liberò il proprio belato oltre il bordo e svanì. Haidak attraversò a quattro zampe il sottobosco, si lasciò rotolare sul fianco della duna e incespicò nella sabbia fino a raggiungere i suoi compagni. Li trovò ancora accanto al detonatore, paralizzati, rintronati dal ruggito dei vagoni di carbone che si sfracellavano e dalla grandezza della loro fine. Haidak li spronò a fuggire, prendendo tutta l'attrezzatura. I quattro raggiunsero di corsa la jeep, ci si infilarono dentro alla belle meglio e tornarono alla macchina di Doc, e lì si divisero come pianificato per tutto il tragitto verso l'accampamento. Doc e Bonnie cantarono vecchie canzoni, compresa la favorita di tutti i tempi, I've been walking on the railroad. E la stessa cosa fecero George, Haidak e Seldon Sin Smith. Oh, Ancora qualche minuto avanti con i sabotatori, ve la regaliamo perché ci hanno interrotto e noi andiamo un po' più avanti. Tanto ci regoliamo il tempo perso. Il tempo perso per noi non è mai tempo perso, ma è tempo ragionato e regalato. A nessuno se non altro che a noi. E quindi adesso passiamo al riposo e relax. Abbiamo appena fatto deragliare un treno automatico carbonifero dove c'era anche però un conducente. Il ranger carino aveva qualche domanda da fare. Vi state divertendo qui a Navajo National Monument? La luce del fuoco mandava riflessi sulla sua faccia giovane, onesta e graziosa e perfettamente rasata. Le sue caratteristiche erano quelle che ci si aspetterebbe di ritrovare in qualunque ranger di parco: alto, magro, capace e non troppo sveglio. Moltissimo, rispose il dottor Service, ci siamo divertiti moltissimo. E da dove venite, se non sono troppo indiscreto? Doc rifletté rapidamente. Veniamo dalla California. Abbiamo un sacco di gente che viene dalla California in questi giorni. Da che parte della California? Dalla California meridionale, disse Bonnie. Andrebbe un goccio ranger? Chiese il dottor Service. La ringrazio signore, ma non posso bere in servizio. Grazie mille per l'offerta. Avevo notato che sulla vostra auto c'era la targa del New Mexico e per quello che vi ho chiesto. Io andavo a scuola in New Mexico. Davvero? Disse Bonnie. Mio marito ed io viviamo adesso là. Suo marito è un medico? Beh, credo proprio che lo sia, confermò Bonnie. Ho visto i caduci sulla macchina, ho provato anch'io con la medicina per un po', ma la biochimica era troppo dura per me. Così mi sono spostato sulla gestione delle risorse naturali e ora eccomi qui a fare il ranger in un parco naturale. Ma questo è giusto, disse Doc. C'è un posto per tutti, per quanto umile negli Stati Uniti nello schema generale delle cose. E da che parte del New Mexico venite? Meridionale, rispose Bonnie. Ah, mi sembrava di aver capito California meridionale, mi scusi. Ho detto che veniamo dalla California. Mio nonno qui, Doc aggrottò le sopracciglia, è della California. E mio marito che è del New Mexico. Messicano? Del New Mexico. A noi non piacciono le espressioni razziste, dovrebbe chiamarli americani con cognome spagnolo. Messicano nel New Mexico è un insulto. È un popolo orgoglioso e sensibile, spiegò il dottor Service, con una grande tradizione e una storia carica di gloria alle spalle. Beh, suo marito deve essere un giovane con la barba, quello che guida la Jeep azzurra con l'argano sul davanti e le targhe dell'Idaho. Un breve momento di silenzio. No, quello è mio fratello, disse Bonnie. Non l'ho ancora visto oggi. Ah, sta tornando a Baja California, dovrebbe essere già a Caborca. Il ranger giocherello con il suo cappello bordato di metallo in stile campagna antincendio. Per quel che ne sapevo, Caborca in genere si trova nello stato di Sonora. Sorrise con dolcezza, aveva i denti bianchi, le gengive rosse e sane, il tremolio della fiamma del falò danzava sul nodo ben stretto della sua cravatta, lo stemma di ottone, il disinvolto dorato da ranger, la targhetta abbrunita con il suo nome sul taschino destro, Edwin P. Abbott Jr. Il dottor Service cominciò a canticchiare a bassa voce sull'aria di Meet Me in St. Louis, Meet Me in Caborca, Lorca. E cos'è successo a quell'altro vostro amico? Chiese il ranger rivolgendosi a Bonnie. Quale altro amico? Il proprietario di quel veicolo là, facendo segno con la testa verso il grande pick-up di Smith parcheggiato nella vicina oscurità, appena visibile nel bagliore tremolante del fuoco da campo. Le insegne ovviamente non c'erano più. Il vecchio Seldom Seen, dove si era cacciato oltre il limite, perduto in un luogo sperduto, voglie di moglie. Beh, io davvero non potrei dirlo, disse Doc. Non può dirlo. Vuol dire che non lo sappiamo con precisione, intervenne Bonnie. Ci ha detto che avrebbe fatto un'escursione da qualche parte e che sarebbe tornato nel giro di 5 giorni. E come si chiama? Esitazione. Smith, disse Bonnie. Joe Smith. Il ranger sorrise nuovamente. Ma certo, Joe Smith e Page vi piace? Page. Black Mesa. Black che? Avete sentito i notiziari di questa sera? Dei pezzi? E che ne pensate della crisi energetica? Ma io sono stanco, disse Doc, credo che andrò a dormire. Beh, siamo contrari, disse Bonnie. Beh, io sono a favore, disse Doc dopo averci riflettuto un istante. Dov'è che eravate la notte scorsa? Ma boh, non mi ricordo, non posso dirlo, disse Doc. Eravamo qui vicino a questo stesso bivacco, disse Bonnie. E lei dov'era? Siete partiti molto presto stamane, allora. Sì. È vero, disse Bonnie. Allora mio fratello voleva partire alla buon'ora e così lo abbiamo accompagnato per un pezzetto. Tutto qui, ci sarà mica una legge che lo vieta di accompagnare un pezzetto la brava gente? Calma, calma, disse Doc. Mi spiace, signorina, disse il ranger. Non era mia intenzione ficcare il naso nei vostri affari. Era semplice curiosità. Tutto qui. Vi spiace se do un'occhiata dentro la vostra macchina? Nessuna replica. Che cosa avete pensato delle notizie? Chiese il ranger. Bonnie e Doc rimasero in silenzio, lo sguardo fisso sul fuoco. Il giovane ranger, ancora in piedi, ancora con il grande cappello che gli girava tra le mani, li osservava. Mi riferisco al treno, ovviamente, disse il ranger, che non era Tex Wheeler. Doc sospirò e spostò silenziosamente il suo Marsh Wheeling, il sigaro, sull'altro lato della bocca. Beh, disse. Abbiamo sentito, disse Bonnie, per noi si tratta di una cosa altamente deplorevole. Lo dicevo un tempo e lo ripeterò ancora, disse Doc. L'anarchia non è la risposta. La risposta a cosa? Domandò il ranger. Scusi? La risposta a cosa? Ma qual era la domanda? Beh, noi abbiamo sentito che era un treno automatico, disse Bonnie, così immagino che non si sia fatto male a nessuno. Automatico, è vero, rispose il ranger, ma a bordo c'era un supervisore ed è stato fortunato. Cos'è successo? Secondo le ultime notizie c'è stato un incidente o qualcosa del genere al ponte sul Caibito Canyon. Il ranger li guardò e non ottenne nessuna risposta. Ma naturalmente avrete sentito i notiziari. Io avevo l'abitudine di mangiare in ristoranti automatici, disse Doc. E anche quello era dannatamente rischioso. Io ricordo quando ero studente alla Columbia University di New York, un automatico distributore all'incrocio tra la Amsterdam e la 114esima, c'erano scarafaggi ed erano anche quelli automatici blattella germanica, grandi, intelligenti, aggressive creature terrificanti. Che è successo a quel supervisore? Chiese Bonnie. Non avete sentito? No, mica bene. Beh, sembra che parte del treno avesse attraversato il ponte prima del crollo. Il supervisore ha avuto il tempo per saltare giù dal locomotore prima che fosse trascinato indietro nel canyon. Al notiziario hanno detto che tutto il treno, il locomotore e 80 carichi di carbone sono finiti in fondo al Caibito Canyon. Ebbè, perché il supervisore o ingegnere o che altro era non ha schiacciato sui freni o sull'acceleratore, non ha fatto quello che si deve fare in casi del genere con un locomotore? Perché non c'era più corrente elettrica, disse il ranger. E quello è un treno elettrico. Quando il ponte è crollato si è portato dietro anche la linea della corrente. Deplorevole. È rimasta fulminata anche qualche pecora prima che togliessero la corrente, e adesso anche gli indiani sono furiosi. Con chi ha tagliato la recinzione. Pausa. Il tronco di ginepro crepitava nel fuoco, la notte fredda diventava sempre più fonda, le stelle bruciavano più luminose. Bonnie si coprì la testa con il cappuccio della sua giacca a vento. Doc ruminava il mozzicone spento del suo sigaro. Il ranger attese. Quando non ci fu nessuna replica, allora proseguì. Naturalmente potrebbe essere stato un indiano a tagliare la recinzione. Eh sì, sono proprio un popolo incosciente. Secondo la radio, la ferrovia ha registrato danni per 2 milioni di dollari e la centrale elettrica rimarrà chiusa per un paio di settimane. Un paio di settimane? Beh, così hanno detto la radio, fino a che rimetteremo a posto il ponte. Naturalmente la centrale ha grandi scorte di carbone, Vi spiace se do un'occhiata all'interno della vostra auto? Solo un paio di settimane, meditò Bonnie fissando le fiamme. Faccia pure, giovanotto, disse il dottore. Grazie, signore. Bonnie si risvegliò dal suo torpore. Cosa? Aspetti un attimo, ci mostri il suo mandato di perquisizione. Amico, agente, noi qui abbiamo ancora dei diritti. Certamente, disse il ranger, vi abbiamo solo fatto una richiesta. E soavemente aggiunse: preferite che non veda quello che avete dentro? Deve avere un mandato firmato da un giudice. Ah, sembra avere una certa familiarità con questi dettagli legali, signorina. Per lei, signora agente. Signora, mi perdoni, signora come Abzug, se ci tiene, mi scusi. Avevo capito che era sposata con un messicano del New Mexico, ho detto. Pancho Abzug, spiegò Doc. E farà meglio a crederci, disse Bonnie. We'll be right back. che il ranger, non solitario ma in pattuglia, sbirro, estrasse un radiotelefono portatile dall'astuccio appeso alla cintola, dove teneva anche la sua bomboletta di lacrimogeno paralizzante e una torcia a 5 pile. Non esattamente l'ideale per i reni, notò Doc tra sé e sé. Se volete, disse, proverò a vedere cosa fare per avere un mandato. Naturalmente, mentre aspettiamo, dovrete restare qui. Ed estrasse l'antenna telescopica. E dove lo prendi un mandato? Chiese Doc. Dato che questa è proprietà del governo americano statunitense, cadiamo sotto la giurisdizione della corte federale più vicina, che nel nostro caso si trova a Phoenix. Progetto Phoenix, un'altra cosa. Sveglierà il giudice. Beh, quel giudice che prende 40.000 dollari l'anno. Mi sembrava di aver capito che questo era un parco nazionale, disse Bonnie. Un monumento nazionale, per la precisione, come la Death Valley o Organ Pipe. C'è una differenza tecnica. Beh, ma in ogni caso è proprietà di tutti gli americani, disse Bonnie. Il ranger esitò. Parlando da un punto di vista tecnico, questo è corretto. Così, proseguì Bonnie, questo posto è davvero un parco del popolo. E se tu vuoi perquisire la nostra auto in un parco del popolo, non è un parco del popolo, è un parco nazionale. Dovresti vergognarti di te stesso. Il ranger arrossì, poi alzò le spalle. Beh, mi spiace, ma io devo fare il mio dovere. Dal momento che vi rifiutate di farmi dare un'occhiata alla vostra auto, sono costretto a richiedere un mandato di perquisizione. E portò alle labbra il suo walkie-talkie. Aspetti un attimo, disse Doc. Il ranger aspettò. Doc disse, quanto ci vorrà per fare tutto? Quanto? Il ranger fece qualche calcolo nella sua mente. Se il mandato me lo portano in macchina ci vorranno circa 8-10 ore. Se il giudice è a casa, se prendono un aereo, una o due ore. E dovremmo aspettare tutto quel tempo. Beh, se lo portano stanotte magari dovrete aspettare fino a domattina. Posso chiederle, disse Doc, qual è lo scopo di questa perquisizione senza mandato? Ah, solo un'indagine di normale routine, signore. Ci metterò meno di un minuto. Il dottor Service guardò Bonnie. Lei ricambiò il suo sguardo. Beh, Bonnie. Lei alzò gli occhi al cielo e fece spallucce. E va bene, disse Doc. Si sfilò dalla bocca il mozzicone di sigaro fradicio e tirò un grande sospiro. Faccia pure. Perquisisca la macchina. Oh, thank you, grazie. Il ranger rinfoderò la sua radio, sfoderò la sua torcia elettrica e si avviò con passo veloce verso la macchina. Bonnie lo seguì. Doc invece rimase stravaccato sulla sua sedia pieghevole in tela vicino al fuoco, sorseggiando il suo bourbon con aria sconsolata. Bonnie aprì il portellone della station wagon coperto di polvere. Una luce fioca si accese. Cascate di sabbia rossa e limo farinoso si rovesciarono sugli stivali lustri del ranger. Strade secondarie, disse. Bonnie rimase in silenzio. Il ranger accese la sua torcia per dare un'occhiata più da vicino alle scatole di dimensione uniforme impilate con estrema cura. Lesse le etichette, poi si piegò in avanti per leggere meglio. Difficile confondere quel nome celebre nel suo familiare marchio ovale. Difficile non ricordare il notissimo slogan «Le cose migliori per vivere meglio». Difficile ignorare i dati puntuali stampati chiaramente su ogni scatola. 22,65 kg, 60% resistenza, 1x8, eccetera. Adesso toccava al ranger sospirare. Tirò di fuori di nuovo il suo minuscolo Motorola walkie-talkie al tempo, mentre Bonnie osservava irritata. Il dottor Service mise giù il drink e si alzò dalla sua sedia vicino al fuoco. Signore, disse il ranger repentinamente. Doc fece un passo verso l'oscurità del bosco. Fermo! Doc si bloccò guardandolo. Sì? La prego, rimanga sulla sua sedia, rimanga lì dove si trova. Il ranger, come rilevato in precedenza, era armato soltanto della sua bomboletta di lacrimogeno e il buon dottore si trovava ad una ventina di metri, decisamente fuori portata. Ma la ferma autorevolezza del tono del giovane fece passare la voglia di rischiare un confronto diretto persino a un delinquente di mezza età come il dottor Service. Si sedette, borbottando ma adeguandosi. Il ranger tenendo un occhio sulla ragazza al suo fianco e l'altro sul dottor Service, una cosa non semplice dato che il ranger si trovava in mezzo ai due, parlava tranquillamente ma con chiarezza nel microfono del suo telefono. JB3, e qui è JB5. Rilasciò il pulsante di trasmissione e dall'altroparlante interno giunse una rapida risposta. JB3 continua. Ho bisogno di assistenza alla piazzola 10, campeggio vecchio 1078, 1078, 104, stiamo arrivando, JB3, JB5, passo. Il ranger si rivolse a Bonnie. Nella sua voce apparve una caratteristica completamente nuova. Ok, signorina, signora, ok, signora. Il suo tono affondò in un ringhio. Sul suo labbro superiore perfettamente rasato si disegnò una piega malvagia. Tutto quel metallo, cuoio e pelliccia di castoro entrava nello sguardo del Ranger Abbott nel suo cuore. Ranger del parco, piedi piatti dei cactus, sbirro delle piante. Tirò avanti la cassa di cartone più vicino al portellone. «Apra quella scatola!» Aveva detto che voleva solo dare un'occhiata all'interno dell'auto. Apra quella scatola! Non sono d'accordo! Apra quella cassa! Doc osservava in tetro isolamento dalla sua sedia mentre la luce del fuoco mandava giocosi riflessi sul suo naso, sulla cupola del suo smisurato cranio pelato. Sorseggiò il suo drink in attesa dello smascheramento. Bonnie strappò il nastro che assicurava il coperchio, poi ebbe un'ulteriore esitazione. L'apra! Lei scrollò le spalle, serrò le mascelle. Un ricciolo isolato color castagna scende come una carezza lungo la curva della sua guancia infiammata. Le lunghe ciglia sono abbassate e quindi serrò le mascelle e sollevò il coperchio della scatola. Il ranger guardò dentro e vide quella che sembrava una raccolta di barattoli e coperchi di barattoli. Strano. Tirò fuori un barattolo e lesse l'etichetta. Def Smith Brand, il burro di arachidi, come lo faceva la nonna. Molto strano. Svitò il coperchio. All'interno c'era liquido oleoso. Sniffò, infilò un dito, lo ritrasse coperto da una sostanza unta marrone denso. Merda! Mormorò incredulo. No! Burro d'arachidi! Lo corresse Bonnie. Strofinò il dito sulla cassa. Lo assaggi, disse Bonnie, le piacerà. Riavvitò il coperchio e rimise il barattolo al suo posto. Apra l'altra cassetta, ringhiò. Bonnie la aprì senza fretta e nel frattempo sopraggiunsero altri due ranger. Le aprì tutte le casse mentre il ranger Abbott e i suoi rinforzi rimanevano lì in piedi a guardare sinistri e silenziosi. Lei esibì il burro d'arachidi, i fagioli bolliti, i green giant sweet kernel corn, il pancake di Aunt Jemima, il tonno in scatola, i fagioli immacolati, le vongolini, lo sciroppo di pittosporo, le ostriche in scatola, le aringhe affumicate, i sacchetti di zucchero e farina, gli utensili da cucina e anche gli articoli da toilette, nonché i libri di fiori di cucina e una prima edizione autografa di notevole valore di Desert Solipsism, gli slip dei suoi deliziosi bikini e gli assurdi calzini di Doc, e poi altro e altro ancora, tutto piegato e impacchettato a dovere nelle casse in fibra di cartone maneggevoli, compatte, robuste e durevoli, fatte in origine per la dinamite. Dove ha preso queste casse? Domandò il capo dei ranger. Lasciatela in pace, disse Doc dal fuoco debolmente. Lei stia zitto, dove le ha prese, ragazzina? Ma le abbiamo trovate vicino ai vostri bidoni, nelle immondizie, disse Bonnie, proprio lì, e indicò vagamente con mano incerta verso le numerose piazzole variamente insozzate, ma vuote comunque lì vicino. I ranger si guardarono tra di loro congetturando senza costrutto. Erano loro, disse il capo schioccando le dita. Quei maledetti pazzi indiani zozzoni. Scioscioni vuol dire, sì, scioscioni, giusto? Quei bastardi capelloni. Andiamo, Ed, tu chiama l'ufficio dello sceriffo. Io e Jeff contatteremo il dipartimento di pubblica sicurezza. E i tre uomini si allontanarono con passo spedito nella notte verso le loro auto di pattuglia, parlando in fretta e a bassa voce. qualcosa a proposito del IMA, il movimento indiano americano, i cani pazzi, la tribù degli Shoshone, la ricostituita chiesa nativa americana delle teste di rapa dell'ultimo giorno. Potere rosso, gli urlò dietro Bonnie, sollevando il pugno chiuso sopra il burro d'arachidi, ma i ranger, dileguatisi nelle diverse direzioni, non la sentirono. Una pausa. Due tipi inselvatichiti emersero dall'ombra con indosso abiti impolverati, esibendo sorrisi imbarazzati, baffi e lattini di birra nella mano. «Se ne sono andati?» chiese Seldon Sean Smith. «Se ne sono andati», rispose Bonnie. «Beh, piccola, ce ne hai messo di tempo», disse. Radio Azione. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione.org.